Nie, nie! Salve! Nie! A tutti gli amanti del brivido e dell'inspiegato. E quando dico inspiegato, non intendo la massaia che da casa ripone i panni. Nie. O quelli che copiano i loghi e stanno nella valle dell'Esero. Fanculo. Noi siamo qui a fare i cronisti d'assalto e per riportare alla luce sugli intricati. Oscuri casi dove non c'è corrente. Vergogna! E ne la dicendo! Vergogna! E che c'entra che sono? Quello che va detto, regia! Il mistero di oggi riguarda la misteriosa sparizione di Gigino Miglio, detto anche Squiz Bomb. Dalla scomparsa di I Miglio si sono occupate trasmissioni tipo del calibro di Fuori Giri e testate giornalistiche come quelle di Cronaca Nera, che tra l'altro non riuscivo a leggere perché mi vigevo sulla Bonanza in copertina in bianco e nero. Oh, ma fai giro un barrone di macchina e moto. Solo noi di 69esimo grado faremo chiarezza in maniera definitiva di questo scabroso caso. Taglia queste ciutiate, yammaia. Gigino si appestava la notte tra il 29 febbraio e il 1 marzo 1976. A dare una mano di vernice alla sua staccionata. E qui arrivava già da darsi il primo interrogativo. Perché con la mano e non con il piede? Se era scoppovato e un vigno per gli aromi, forse. Non ci interessa. Al massimo gli facciamo ridipingere lo studio. Questo è il fatto che il nostro Miglio, dalla sua casa in contrada di Sicoli, si è volatilizzato nel nulla. Qui il secondo interrogativo. Erano alieni? Ad aver bisogno di Mascio Gigino come il Mascio Pitture? Le indiscrezioni confermano la presenza di strane luci e di gatti scappati con il pelo irto e lambi accecanti. Solo noi di 69esimo grado abbiamo avuto il coraggio di indagare ed oltre a mostrare il volto della vicenda in diretta il vicino di casa di Mascio Gigino per capire come sono andati i fatti. Che è? Si può sapere che voi stai mangiando? Salve, siamo di 69esimo grado. Stiamo per fare chiarezza sulla scomparsa di Gigino Miglio. Lei cosa ci può dire al riguardo? Gigino, è già dentro che sta aspettando lo solaio con pennello cinghiale. Pennello cinghiale? Pennello di cinghiale. Non giuro. Noi siamo qui per capire. È vero che Gigino, che tra l'altro giocava come un brasiliano a calcio, è scommesso la notte tra il 28 febbraio e il 3 marzo 1976. Ma quale scomparso? Ma ricordo che la sera abbiamo utilizzato un sciobbo dalla discoteca Acropolis per non si vede un cazzo. Era venuto a caccia, no? Sai com'è? Non si vede niente la notte. Poi, Franco Siciliano se ne è accorto che non abbiamo fregato su cazzo di sciobbo. E ne è fuggito appresso, picchisso! C'è su strano effetto, Luca, io e Benino, non si capisce niente. Pensa, che a Massimo Maneggio ci aveva scritto pure un articolo su Palufa Besignano, poi già capito un cazzo, ovviamente, e stavano ammazzando i cignali con fucile. Ma il corpo senza vita di Gigino, dov'è? Ma quale senza vita, minchio? E poi, 76 è stato un anno bisestile, dopo 28, ci avevo 29 di privato, sei proprio una cazzicio feca. Aspetta, mo tu chiama Gigino, che tu faccio vedere. GG, GG. Diciami, Kumba, e chi ne è che so, se li non può di bene. Anche questa sera abbiamo fatto luce su un mistero che nessuno mai ha avuto il coraggio di risolvere. Gigi, era proprio Gigi, Gigi. Arrivederci, tutto bene, quel che finisce bene. Fanno nulla.